Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'è già una fortissima vivacità qua in studio perché il tema di oggi, i temi di oggi sono molto belli, Nicoletta. Guardateci, siamo in diretta Facebook, guardate già le nostre facce. Come sono soddisfatte per tutti gli ospiti che abbiamo con noi questa mattina. Parleremo di lavori, introduco subito molto velocemente il tema che affrontiamo in questo primo venerdì di maggio, che è intanto molto vivace per la borsa perché ieri tutti i listini del vecchio continente hanno avuto una giornata molto brillante. Oggi si fermano un attimo, prese di profitto, ma c'è appunto effervescenza fra il mercato azionario. Oggi è venerdì, arriva il dato sul mercato del lavoro americano. Noi invece parleremo di mercato del lavoro italiano, perché l'Istat nei giorni scorsi ha scattato una fotografia molto preoccupante e riguarda la condizione che vivono gli over 50. Sono più i disoccupati che hanno più di 50 anni rispetto a quelli che invece hanno sotto i 30 anni. Una fotografia che naturalmente ha lasciato spazio su tutti i giornali a tante indagini, tanti commenti. Noi entreremo nel merito di questa notizia, ma naturalmente dando indicazioni pratiche e concrete. Cosa è possibile fare, cosa si deve fare per stare, per affrontare con serenità questo frangente difficile se lo si vive. Naturalmente, come sempre, aspettiamo le domande dei nostri ascoltatori. All'800 24 00 24, un taglio alla Cuore Denari, perché anch'io mi soffermerò sul tema. La mancanza di lavoro è una fonte di grande stress e grande preoccupazione. È importante cercare in tutti i modi di mantenersi in piedi. Sembra una battuta, un luogo comune, in realtà è importante insistere anche su quello che può sembrare un dettaglio, è l'alimentazione. Immagino che in una persona che ha perso il lavoro, che ha tanti problemi, la dieta sia l'ultimo dei suoi pensieri. Ebbene, attenzione, perché lo stress ci fa mangiare di più, ci fa mangiare peggio, e tutto questo attiva un circolo vizioso che è bene interrompere prima il possibile, perché a farci a rendere insomma tutto più complicato può essere un sistema immunitario che va in tilt. Quindi noi con i nostri consigli cercheremo anche di darvi delle indicazioni per affrontare in forma, per quanto possibile, questo periodo così delicato. Dopo 30 anni di servizio per la mia azienda, questo è quello che ricevo in cambio. E mandano pure un idiota come lei qui per venire a dirmi che da adesso non ho più un lavoro. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. Beh, negli ultimi anni indubbiamente la cinematografia a piene mani ha attinto al tema del lavoro. Sì, forse non è quello, è quello il... No, perché ho un ospite che si sta sistemando il livello delle cuffie, naturalmente, perché io sposto e poi praticamente mando in tilt i timpani dei nostri ospiti. Tanto poi così intervengono i miei esperti. Tu con Franzetti e tutti i tuoi amici. No, Burdo in questo caso, il dottor Burdo. Esatto. Allora, il tema del lavoro ci sta molto a cuore, lo sapete, abbiamo anche affrontato questo argomento dal punto di vista del chi cerca non trova, aziende che hanno posizioni aperte, giovani e meno giovani che cercano lavoro e non lo trovano, insomma questa forte distanza che c'è fra domanda e offerta. E anche se spesso molti argomenti li trattiamo con leggerezza e con un tono colloquiale ed amichevole con ospiti ed ascoltatori, questo non vuol dire che non ci stia a cuore, lo sapete bene, la situazione invece di chi vive questo frangente così difficile. Nei giorni scorsi l'Istat ha scattato una nuova foto che al solito mostrato luci ed ombre. Le luci si riferiscono al tasso di disoccupazione giovanile, perché la percentuale dei senza lavoro di età inferiore ai 25 anni è scesa al 34%, una cifra spaventosa. È però in Italia il livello più basso da 5 anni, perché per lungo tempo abbiamo avuto un tasso superiore al 40%. A fare da contraltare a questa notizia ne arriva un'altra che riguarda invece la popolazione più adulta, quella dei disoccupati over 50, che hanno sorpassato i giovani e fra il 2016 e il 2017 sono cresciuti di oltre 103.000 unità. In totale in Italia sono oltre 500.000, li chiamano disoccupati senior. È un tema molto importante in un mercato del lavoro, quello italiano, che lo sapete non ha grandi caratteristiche di flessibilità e ricolloca con estrema fatica molti profili, soprattutto questi a quanto pare. Durante la puntata di ieri di Cuore Denari abbiamo anticipato che oggi avremmo affrontato questo tema. Ci torneremo peraltro anche lunedì con Tutto Food, Nicoletta, perché rifaremo un punto della situazione sui mestieri del cibo, un settore sempre effervescente. E ieri, lanciando l'argomento, subito ci avete scritto con alcune domande per i nostri ospiti di oggi. Fra un po' ve le leggo, intanto vi presento Cetti Galante, amministratore delegato di Into Digi Group. Adesso spiego tutto correttamente. Dottoressa Galante, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti. Magari lo faccio fare a lei il biglietto da visita di Into, come dobbiamo chiamarla, dove mettiamo l'accento, così facciamo conoscere bene questa società ai nostri ascoltatori. Deborah l'ha detto perfettamente, Into è una società specializzata nel supporto alla ricollocazione professionale e allo sviluppo della carriera delle persone. E il vostro focus è soprattutto su questa fascia? Assolutamente, nostra età media 50 anni. L'avvocato Francesco Rotondi è con noi anche questa mattina, socio fondatore partner dello studio legale Lab Law, giuslavorista, benvenuto e grazie. Grazie, buongiorno a voi. Anche lui è un esperto appunto di questo mondo del mercato del lavoro in difficoltà, segue soprattutto le aziende che ristrutturano, si riorganizzano e probabilmente queste storie ci si confronta ogni giorno, no, avvocato Rotondi? Assolutamente sì, ed è un tema sul quale devo dire, contrariamente a quello che si possa pensare, che anche le aziende, prima di prendere queste importanti decisioni, riflettono molto su quello che sarà il futuro di quelli che potrebbero essere disoccupati. Infatti. Allora, prima della partenza della trasmissione di questa mattina, i nostri ospiti mi hanno fatto questa raccomandazione. Facciamo poca retorica sull'argomento, perché non è necessaria. Dottoressa Galante, lei è stata soprattutto la portavoce di questa richiesta nei miei confronti. Io naturalmente condivido, però magari un commento sul dato nazionale vogliamo farlo, perché questo ribaltamento vale la pena approfondirlo, soprattutto da parte vostra, che invece state mostrando, per quello che riguarda la ricollocazione di questi profili, trend di crescita molto, molto interessanti e molto vistosi. Però ecco, anche questo ci racconta che per questo profilo evidentemente c'è molto da fare. Assolutamente. L'Italia è un paese in controtendenza rispetto ad altri paesi europei che stanno riprendendo ad assumere over 50, in testa a tutti la Germania e la Francia. Ci si è resi conto di essersi depauperati di competenze importanti e si torna ad assumere over 50-55. L'Italia questo ancora non lo sta facendo. A queste persone chiude abbastanza le porte, perché la legge Fornero e tutto quello che ne è conseguito ha rallentato l'uscita, e dunque le aziende sono già appesantite di profili senior e ne accolgono pochi. Da qui la necessità di farsi supportare, perché da soli è un pochino, ovviamente, difficile rientrare in azienda, ma direi, come regola d'oro, essere flessibili e disponibili anche a reinventarsi. E magari faremo qualche esempio. Assolutamente, come. Andremo proprio sul concreto, perché l'aspetto e la modalità di affrontare certi argomenti che a noi preferiamo. Ovviamente, se volete anche raccontarci la vostra storia, siamo a vostra disposizione all'800 24 00 24, anche se c'è da dire che magari certi profili, raccontare la loro storia di fuoriuscita, magari di rompente drammatica dal mercato del lavoro, la raccontano con difficoltà. Dottoressa Galante, c'è anche una importante differenza di genere nell'affrontare questa condizione di difficoltà. Come la vede? Assolutamente. La donna è un po' più reattiva rispetto all'uomo. La donna è più arrabbiata, ma riparte più velocemente. L'uomo ne risente, perché ovviamente è molto più centrato come identità sociale solo sulla professione, per cui la perdita del lavoro rappresenta veramente una mutilazione sociale. Avvocato Rotondi, cosa fa un'azienda che effettivamente, quando deve riorganizzarsi e ristrutturarsi, è consapevole del fatto che lascerà a casa questi profili? Ma quello che cerca di fare normalmente un'azienda socialmente responsabile, e non tutte lo sono, è quello di accostare a queste persone, ex dipendenti, un percorso di riqualificazione. Outplacement. Su questo si potrebbe aprire un grande dibattito, però io devo dire una cosa: quello che fa l'azienda è limitato al rintracciare il migliore, come posso dire, operatore nel mercato. Dopodiché la palla passa evidentemente a questo. Devo dire che in tutto questo, ancora una volta, e questa non è retorica ma è un fatto, lo Stato è assente. Punto. Ha demandato ai privati e li finisce, specie per gli over 50. Non stiamo parlando dei giovani e tutto quello che è il collocamento, la garanzia giovani, eccetera. Sì. Volevo solo fare una precisazione. Noi è vero che siamo in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, però noi siamo sempre abituati a guardare gli effetti. Cioè, si riparte ad assumere perché noi no? Ma quello è figlio di una politica, però. Cioè, poter oggi rioccupare i cinquantenni è figlio di una politica che ha preso determinate categorie professionali, le ha riqualificate nel tempo e oggi sono disponibili. Ha fatto un po' di prevenzione della crisi, esatto, perché, sostanzialmente. Esatto, non possiamo sempre immaginare questo. Secondo punto, questo incremento della disoccupazione degli ultra cinquantenni è figlio anche del termine di quello che noi utilizziamo sempre per coprire le crisi, gli ammortizzatori sociali. Cioè noi ogni volta rispondiamo alla crisi con o decontribuzione o ammortizzatore sociale lungo, rispetto al quale tu hai l'occupazione perché rimani occupato e il dato quindi non cresce. Non hai la riqualificazione, quando cessa l'ammortizzatore sociale riprende la disoccupazione e trovi persone che non si possono ricollocare. E questo rischia di far, esplodere la situazione al punto da farla diventare, lo diceva la dottoressa Galante, me lo diceva a microfoni spenti, quasi una bomba sociale. Dobbiamo prepararci ad una eventualità di questo tipo. I ragazzi sono più flessibili intellettualmente, culturalmente parlando, oltre che fisicamente. Per gli over 50 non c'è questa elasticità mentale del predisporsi appunto alla condizione di crisi. Purtroppo questo è il quadro che dobbiamo fare. Perlomeno non per tutti, ovviamente le generalizzazioni non vanno bene, però per la maggior parte così. I ragazzi conoscono il mondo del lavoro di oggi, non hanno benchmark. Il cinquantenne soffre il cambiamento del mondo del lavoro, si proietta in una situazione passata che oggi non esiste più. Per cui la prima cosa da fare è prendere atto delle caratteristiche del mondo del lavoro di oggi. È un grande tema il digital e il web, no? Oggi la web reputation è una cosa fondamentale e maggior parte dei cinquantenni non sanno neanche cosa sia. Ecco qua. Allora, primo suggerimento pratico da dare: intanto cercate di far veicolare la vostra immagine, le notizie sulla vostra professionalità, appunto, in maniera anche corretta. Esatto. Da questo ripartiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista. C'è un bel faccia a faccia a microfoni spenti nel nostro studio fra Cetti Galante e l'avvocato Francesco Rotondi sul tema del ruolo dello Stato nell'affrontare questa crisi. Se vi piace torneremo a parlarne. Oggi andiamo sul concreto e pratico per i nostri ascoltatori che già sono pronti a raccontarci le loro testimonianze, le loro esperienze, appunto all'800 24 00 24. Fra un po' andiamo da Grazia in provincia di Treviso, ma vorrei appunto sempre per questioni di carattere pratico ritornare con la dottoressa Cetti Galante, amministratore delegato di Intu, che è questa società che si occupa proprio di outplacement e di ricollocazione di questi profili, quelli di cui parliamo questa mattina, per questa società più grande che è G Group. Dottoressa Galante, allora, voi ogni anno seguite, ho letto qualche numero relativo alla vostra attività, più di 2500 persone attraverso programmi di continuità professionale, individuale o collettiva. Ci dice quali sono i profili che avete ricollocato meglio, come si erano presentati anche da voi, con quali carte, come avete suggerito loro di muoversi nel caso in cui appunto questa improvvisa crisi della propria condizione professionale li abbia colti alla sprovvista, ma quantomeno hanno avuto la lucidità di rivolgersi subito ad una società specializzata nella ricollocazione? C'è una legge comune a tutti gli over 50, è la proattività e la flessibilità. Come dicevo prima, questa è la parola chiave, perché mi lasci dire, ci sono dei settori più recettivi, possiamo dire il lusso, il retail, i bravi CFO, profili molto specializzati tecnici nell'energia, per dire, ovviamente più si è specializzati più è facile, diciamo, no? Ma dipende unicamente dall'attitudine della persona. Deve essere di proattività, di energia e di guardare alla realtà del mondo del lavoro senza attaccarsi ai sogni del passato e rimanendo chiusi. Per cui la prima cosa è capire la propria spendibilità allargata, dopodiché essere capaci di raccontare in modo impattante, in pochissimi minuti, il proprio profilo, le proprie skills, le aree di forza. Le skills sono le competenze. Le competenze, perdonate. Tracciare un perimetro chiaro di azione, sia geografico che di fascia retributiva che di tipo di aziende. Se l'età è più verso i 60, bisogna essere preparati a cambiare completamente rotta, per cui diventare consulenti, lanciare una propria startup, se si è manager magari anche partecipare in quota in qualche piccola società o startup. Noi abbiamo Back to Work qui del Sole 24 Ore che fa esattamente questo. Esatto. Non è per tutti possibile, naturalmente, perché non tutti gli over 50 escono dalle aziende come manager di una determinata fascia con delle buone liquidazioni da poter mettere sul piatto appunto per proporsi. Però andiamo adesso ai profili magari un po' più modesti. Avvocato Rotondi, allora prima dicevo, ieri quando abbiamo lanciato la nostra trasmissione abbiamo chiesto agli ascoltatori, cominciate a scriverci, così proveremo anche a darvi qualche suggerimento, ma subito la prima domanda che ci è arrivata ieri riguarda proprio quello che lei diceva prima. Cosa dice la norma? Gli ammortizzatori sociali, gli aiuti, che cosa ho a disposizione se alla mia età sono fuori dal mercato del lavoro, come sono protetto nel periodo che mi serve anche per potermi ricollocare? D'altronde lo spirito dell'ammortizzatore sociale è questo. Ci ha scritto proprio un ascoltatore che voleva notizie sulla legge 92 del 2012, che è la legge Fornero, e che prevedeva proprio degli sgravi contributivi, di cui un'azienda si può valere appunto per assumere lavoratori over 50 disoccupati da almeno 12 mesi. Esatto. Esiste ancora la norma? Assolutamente sì, siamo in presenza di questa, di questo provvedimento normativo che consente non tanto al lavoratore ma quanto all'impresa di avere, come posso dire, un boost alla assunzione degli over 50, perché in quel modo avrà uno sgravio contributivo pari addirittura al 50% dei contributi dovuti se il contratto è a tempo indeterminato per 18 mesi dall'assunzione, e pertanto potrebbe darsi che imprenditori, nonostante non siano in quel momento desiderosi di avere la propria dipendenza gli over 50, lo diventino perché hanno lo sgravio. Quindi, l'incentivo fiscale ha sempre un suo perché. Non c'è niente. Beh, il Jobs Act ci ha insegnato sotto questo profilo. Quindi diciamo che in questo momento, per quanto mi riguarda come visione, in assenza di quelle caratteristiche di cui si parlava prima, no? Di persone che escono dal lavoro ma già con una qualifica o con un livello culturale importante, i lavoratori, io opero in questo settore, che magari mi escono dalla industria molto spesso, perché non dimentichiamo che parlare di disoccupati è sbagliato parlare in maniera generica, perché bisogna identificarli, perché io non posso fare un discorso di startup a un operaio di sesto livello che mi esce da un'industria metalmeccanica, perché lui poverino adesso può aver avuto delle responsabilità perché non si è acculturato, però quello è il suo livello. Allora, per questi dipendenti lo Stato ha pensato di dire mettiamo da parte un attimo la riqualificazione, ma diamo un input alle aziende riducendo i contributi. Questo c'è, è presente ed è attuale. Certo. Ha un determinato obbligo l'azienda di andare a pescare magari da liste speciali questi profili professionali, o può anche cogliere un curriculum di un over 50, però insomma questa persona ha il profilo adeguato per poter essere assunto con questi incentivi? L'importante, l'importante è che il ex lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi. Questo è un parametro fondamentale, perché diventa di rilevanza sociale la disoccupazione dopo i 12 mesi. E quella, la persona che ci ha scritto ci ha chiesto anche: il lavoratore eventualmente assunto con questo incentivo deve aver compiuto 50 anni o basta essere nell'anno di compimento dei 50? Perché la domanda evidentemente è mirata forse alla sua situazione. Ovviamente non c'è un'indicazione precisa, però devo ritenere che a livello interpretativo, quando si parla di over 50, si deve immaginare all'anno di nascita, non alla data di compimento, altrimenti diventa quasi una legge ad personam. Quindi riterrei di sensato immaginare che si debba essere nell'anno del 50° compimento. Chiaro. Grazie. Dalla provincia di Treviso inaugura le nostre telefonate oggi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Ci dica, ci racconti la sua storia. È molto, molto lunga e molto drammatica, quindi insomma, brevissimamente, ho 58 anni, ho fatto di tutto e di più nella mia vita. E, non si commuova, Grazia, perché qua è in uno studio di amiche. Quindi, prima cosa, serenità. Eccoci a lei. No, anche perché poi le amiche sono poi amiche che si commuovono a loro volta alla volta, fine. Quindi guardi, qua diventa, ecco, quindi coraggio, una donna, e quindi insomma 58 anni adesso che situazione vive? Vivo da disoccupata. Cosa ha fatto prima? Di tutto, cioè? Dalla sindacalista alla dipendente statale, ho lavorato per molti anni in ospedale, ho aperto coraggiosamente e non posso non commuovermi. Vabbè, ma perché il lavoro è una parte importante della nostra vita, in cui volentieri o nolente, il lavoro nobilita l'uomo, non è un detto nato così. Ci identifichiamo, così per... esatto. gli psicoterapeuti certo. dicono non devi dire sono ma il tuo lavoro, sei una persona che svolge quel lavoro, ma il lavoro poi assolutamente no, ma le competenze le ha citato, esatto. due cose che sono molto importanti, no, qualificanti. Le capita di parlare con persone che mostrano anche questa emotività, dottoressa Galante? Cosa suggerisce di fare? Di metterla a freno, tenerla sotto controllo, manifestarla solo davanti a lei, dopodiché ripartire? Perché anche questo è un aspetto. Sfogarla, manifestarla, buttarla fuori completamente e poi ripartire. Diamo due suggerimenti a Grazia. Adesso magari la ricontattiamo a microfoni spenti, ci facciamo mandare il curriculum per vedere, esatto, se con Intu grazie. La possiamo, mi la possiamo che aiutare. Ne parliamo. Però insomma sono momenti complessi per molte persone. Certo, allora andiamo ad altre indicazioni di carattere concreto. La visibilità su web oggi non solo è molto importante, direi che è indispensabile, fondamentale, farsi dei buoni profilo sui social giusti, su quelli adeguati, con la foto del profilo, come spesso scherziamo, che non sia quella che ci racconta delle nostre vacanze appunto alle Maldive o magari sul litorale adriatico, come faccio le vacanze io, ma che sia di carattere professionale. Il curriculum e l'aggiornamento, anche 50 anni è importante questo aspetto, dottoressa. Assolutamente. Curriculum... Perché qualche volta lo si lascia lì e non lo si rinfresca tanto. Bisogna sempre averlo fresco, bisogna entrare in una logica quasi di verificare costantemente la propria spendibilità sul mercato, essere curiosi, fare se possibile dei colloqui, anche se non si sta cercando lavoro, perché bisogna tenersi però in esercizio. Però annusare quello che capita annusare, attorno a noi. Essere curiosi, fare tanto network. Network vuol dire parlare con le persone il più possibile anche di settori diversi, per tenersi appunto freschi come aggiornamento sui trend. Una persona come Grazia, prima di tutto, deve riscrivere il suo curriculum cercando di trasferire i suoi punti di forza, che successi ha ottenuto nei ruoli che ha coperto, come li ha ottenuti, attraverso quali competenze. Andare in senso anticronologico, per cui due righe di dati personali velocissimi, foto professionale, curriculum anticronologico, dedicare più spazio all'esperienza recente, via via meno alle esperienze più vecchie, stare in due pagine, ecco, con un carattere leggibile, perché ho visto curriculum con font 2 pur di stare in due pagine, però non si leggono, attenzione, e soprattutto non fare solo una cronistoria di ruoli, ma descrivere il ruolo in due righe, ma poi descrivere se stessi, i successi ottenuti e come. C'è il giornale radio, adesso ci prendiamo qualche minuto di pausa, poi riprenderemo anche ad ascoltarvi all'800 24 00 24. C'è Fabio dalla provincia di Bergamo che si è reinventato a 49 anni, adesso ci racconterà come vive questa situazione over 50, tra poco. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta per la seconda parte di Cuore e Denari, che oggi torna sul tema del lavoro e affrontiamo la condizione dei disoccupati senior, li chiamano così, disoccupati over 50. Quando si rimane a casa a questa età, cosa succede nella nostra mente, ma soprattutto a livello pratico, come possiamo fare per ricollocarci molto rapidamente, per spendere bene le competenze e le professionalità che abbiamo e non vivere in maniera drammatica questa situazione, cosa ovviamente che a dirsi è molto facile, ma poi nella pratica in realtà per molte persone non è così semplice. Detto questo, questa mattina abbiamo due ospiti, l'avvocato Francesco Rotondi, giuslavorista, partner dello studio legale Lablò, e Cetti Galante, amministratore delegato di Intu, che è una società che si occupa proprio di ricollocazione di questi profili per conto di un'azienda, una società più grande che è G Group. Le vostre domande all'800240024, ne avevamo Fabio che è caduto, non risponde adesso, ma abbiamo molti altri ascoltatori che vogliono intervenire. Allora, ci eravamo lasciati con molte suggestioni da commentare ancora, e l'ultima interessante era proprio la differenza che avevamo fatto fra profili di un certo tipo e quelli un po' più modesti, più bassi. Allora, avvocato Rotondi, l'azienda molto spesso che ha la necessità di ristrutturarsi e deve lasciare a casa o ridimensionare magari il ruolo di questi profili, gli over 50, che magari sono dei manager e hanno anche determinate remunerazioni, hanno anche l'opportunità appunto di dire loro ti offro questo servizio di replacement, outplacement, come dicevamo prima. Non è sempre detto che la persona accetti questa opzione, questa che è una vera e importante opportunità poi per ricollocarsi rapidamente. So che riscontrate nella pratica quotidiana anche queste situazioni. Sì, devo dire che la tendenza sta lentamente cambiando, però molto spesso preferiscono per esempio la monetizzazione del valore di questo servizio, che si può analizzare come atteggiamento, perché significa da una parte sfiducia nello strumento, da un'altra parte significa magari ho una rete di relazione che potrebbe consentirmi di ricollocarmi. E quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto che dobbiamo analizzare è che, arrivati a questa età, normalmente, e questo devo dire a prescindere magari dalla differenza fra manager o operai o impiegati di altro livello, l'uomo magari è all'interno della famiglia, magari è anche il capofamiglia, magari ha assunto impegni tali dal punto di vista economico che non gli consentono magari di approcciare anche un altro tentativo che l'azienda fa normalmente, che è quello della riduzione dello stipendio. Il ridimensionamento, diciamo, della perché non dimentichiamo che un conto è quando l'azienda si riorganizza perché ha un problema di costi, un conto è quando si riorganizza perché ha una soppressione di funzioni. Sono due aspetti diversi. E quindi, quando è un tema di costi, l'approccio potrebbe anche essere quello della diminuzione delle RAL. Sotto questo profilo devo dire che c'è una resistenza fortissima da parte, in questo caso, dei lavoratori di più alto livello al ridimensionamento della RAL. Certo. Questo sarebbe anche un bell'aspetto di carattere psicologico, Nicoletta, da affrontare, no? La riduzione delle proprie aspettative di carattere economico, perché deve essere vissuto come un'onta, una penalizzazione così importante, dottoressa Galante? Magari qualche volta, pur di non perdere il lavoro e darti anche quel respiro per ricollocarti, perché no, per un anno? Certo, se il ridimensionamento chiesto è inaccettabile, è un conto, ma se gestibile, affrontabile, però. In genere i ridimensionamenti richiesti non sono mai enormi, no? Si parla di 10-15%, oppure dirigente diventare quadro. Il tema è che si identifica la RAL con il proprio valore. Ci date questo è molto sbagliato. La definizione di RAL, così per farla anche retribuzione annua lorda. Ecco qua, così almeno i nostri ascoltatori ci si riconoscono subito, esatto, nel caso fosse arrivato un documento in cui si chiede questa riduzione di aspettativa. E quindi? No, e quindi ancora una volta flessibilità, accettare la riduzione e intanto cercare un altro lavoro, possibilmente supportati, in modo da in qualche mese realizzare un cambiamento. Profili alti contro profili bassi, non è una guerra naturalmente, è la condizione oggettiva del mercato del lavoro. Fa più fatica a ricollocarsi un manager over 50 anni, con più di 50 anni, appunto un profilo più modesto, dottoressa Galante? È più complesso il manager, perché ovviamente ha un costo più importante, anche se il manager dopo un po' diventa più flessibile sulla retribuzione, e l'azienda che non è troppo flessibile nell'accogliere un manager molto al di sotto dei suoi livelli di partenza, perché sa che poi dopo un po' magari andrà via. Gli operai, se specializzati, non devono temere nulla, le figure di amministrazione trasversali non devono temere nulla. Il tema è che le figure di livello, diciamo, un pochino più basso sono in genere più ancorate al territorio, per cui hanno un perimetro geografico più ristretto. Allora, a maggior ragione, la ricerca deve essere molto sistematica e organizzata. Però devo dire che è più complessa la figura manageriale. Allora, in questo caso va tracciato molto bene la spendibilità del profilo, bisogna essere più flessibili a livello geografico. una certa flessibilità economica, diciamo nel range di un 20% rispetto alla retribuzione di partenza. Tanto però, si può partire dall'alto qui, per trattare, esatto, è nella logica delle cose. Però appunto molto metodo, perché bisogna diciamo essere molto organizzati nel network, perché in Italia pensiamo che solo il 15% delle posizioni disponibili sono su internet. Quindi, per dirla alla ministro Poletti, la partita di calcetto qualche volta è più utile della distribuzione a pioggia del curriculum. Tanto noi l'abbiamo detto che siamo d'accordo con questa visione, per cui poi qualcuno ci contesta. Ecco Rotondi che è d'accordo anche lei. Assolutamente. Meglio imparare a giocare. Poi quando, portatevi avanti. No, ma Poletti l'ha detto magari un po' male, però ha ragione. Ma l'abbiamo affrontata, ecco, guardi. Abbiamo fatto l'analisi logica e grammaticale di quella frase mille cose. Noi siamo con lui, con tutte le totalmente, critiche che ci sono, esatto, piovute, naturalmente poi avvocato. Sì, volevo dire una cosa che evidentemente la guardo sempre dal punto di vista della norma, del giurista. Della norma e soprattutto della gestione in azienda, eccetera. Sì. Io devo dire che sotto questo profilo abbiamo avuto un'ottima risposta dal sindacato. Perché nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, ma poi dopo ripresi negli integrativi, c'è stata moltissima attenzione alla continua formazione, la famosa formazione on the job. Formazione che è stata trattata malissimo negli ultimi 50 anni, fintamente. Oggi le parti sociali hanno compreso come in realtà il problema non si deve porre unicamente quando si è fuori dall'azienda. No, prima, certo, ma certo, prima, bravo. Perché io devo crescere insieme all'azienda e posso avere risorse disponibili per l'azienda che cambia, che cresce. Questo è un tema molto interessante. Non credo che si sia dato il giusto peso al valore che il sindacato ha dato in questi rinnovi, ma credo che sia la strada giusta. Poi dopo possiamo discutere, sono poche ore, sono tante, eccetera, perché poi in Italia critichiamo tra tutto. Tra il tanto e il niente, la via meglio. Di mezzo, esatto. Anche poco, è già qualcosa. Posso agganciarmi a questo, solo 10 secondi volentieri, a questo che ha detto l'avvocato, che è fondamentale, un suggerimento per tutti gli ascoltatori over 50. Stare molto attenti, anche se l'azienda non offre formazione, ma oggi internet dà possibilità infinite, no, di autoformarsi. Fare un corso online a casa la sera dopo cena. Ecco, magari chiacchierare, appunto, come dicevo prima, con persone di altre aziende, di altri settori, capire come il proprio ruolo evolve nel mercato e andarsi ad auto, fare un'autodiagnosi, no, dei propri gap e chiuderli subito appena si manifestano. Dunque, mi rendo conto che non mi sto aggiornando sul digital, non sono abbastanza curioso sui temi finanziari, no? O piuttosto che per un operaio non conosco l'ultimo macchinario uscito perché magari nella mia fabbrica non c'è. Ecco, me lo vado a vedere su internet, mi informo, parlo con persone che lo usano. Cioè, mi devo tenere costantemente, certo, aggiornato. Sai quante cose dobbiamo fare io e te, Nicoletta? Ti guardo, ti mi guardo. Mi viene male. Stavo ascoltando con attenzione. Mi piace paragonare la formazione a una forma di prevenzione. Assolutamente. La salute, giusto? E noi quando ti sentiamo dai medici e siamo sani, ci sentiamo bene, abbiamo tutti i valori a posto, dire mi raccomando, stile mangi di bene, lo stile di vita, insomma ci suona quasi inutile, è un po' fastidioso. No, addirittura questa, qualcuno estremizza dicendo non voglio vivere da malato per morire sano, no? Un po' nel sì, caso sì. Il problema è che poi quando hai necessità, poi la terapia non è detto che arrivi, non è detto che sia quella giusta e può avere un costo molto, certo, alto. E quindi di nuovo ancora cuore e denari si accoppiano. Assolutamente. Prendo velocemente un paio di testimonianze e poi lasciamo i nostri ospiti, ma guardate, l'accoppiata ci è piaciuta, il tema ci piace tantissimo e vi richiamiamo molto rapidamente. Allora c'è Stefano da Pesaro, velocemente Stefano, grazie. Buongiorno, senti, io volevo dare la mia testimonianza. Io ho 54 anni, sono un agente di commercio, mi sto ricostruendo completamente la mia vita lavorativa, accettando anche delle remunerazioni veramente basse pur di rimanere a galla, come giustamente dicevate voi. Volevo però fare una semplice osservazione che in parte è stata fatta da un vostro esperto. Il problema vero è, allora, tutte le nostre singole capacità riescono magari a risolvere dei singoli problemi, però non riescono a risolvere quello che è il vero dramma della collettività, perché io sono bravo, va bene, mi aggiorno, mi adeguo e risolvo magari il mio singolo problema. Il problema vero è la totale mancanza dello Stato in su questa cosa qua. Abbiamo detto all'inizio, Stefano, infatti, sì, non c'è una visione chiara di politiche, esatto, attive per questa fascia sociale. Ma quando il governo governo l'ha fatto agevolando i giovani, abbiamo visto il risultato, l'occupazione giovanile è calata ed è aumentata quella degli over 50. Allora il mio suggerimento semplice è questo, allora il governo deve intervenire. Noi purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo deciso, siamo stati costretti dalle nostre, dai nostri governanti. Corriamo dietro alle emergenze, Stefano, devo salutarla perché il tempo mi sta, ma il principio del suo messaggio lo abbiamo capito molto, molto chiaramente, lo condividiamo. Purtroppo fare il ministro del lavoro è tutto un altro paio di maniche, poi quando si sta lì e magari, come dire, nella testa delle persone che vengono messe a fare quel lavoro c'è anche tutto questo, poi portarla avanti questa iniziativa di qualunque tipo è molto più difficile. Però Imma dalla provincia di Forlì Cesena ci aveva incuriosito perché è un profilo per il quale ci siamo chiesti ma com'è possibile che non riesca a ricollocarsi. Imma, veloce, grazie. Salve. Sì. Sentite, buongiorno. Buongiorno, sono Imma e telefono da Forlì. Sì. Ecco, il problema è questo, perché io sono una contabile, ho sempre lavorato negli studi di commercialisti e questo, diciamo, questo tipo di lavoro è molto difficile trovarlo perché ci sono pochissime offerte, perché gli studi non si rivolgono alle agenzie di lavoro. Lei si sposterebbe, Imma? No, io perché ho una famiglia Forlì. Questo potrebbe essere Cesena, Forlì. Quanti anni hai, Imma? Quanti anni hai? 51. Ecco qua, ci siamo proprio, la nostra donna del giorno. Imma, mi mandi il suo curriculum che è sicuramente un tema di come lei si presenta. Ecco. Perché io non lavorando da un anno e mezzo, ecco, ho questa impressione che non mi sta chiamando più nessuno proprio perché non lavoro da un anno e mezzo. Potrebbe essere, Imma. 51 anni. Potrebbe essere, Imma, potrebbe essere. Quindi deve solamente presentarsi forse in maniera un pochino diversa, valorizzando magari certi aspetti del curriculum su quali lei non ha puntato adeguatamente. Insomma, potrebbero esserci degli aspetti che evidentemente noi che non siamo consulenti del lavoro specializzati nella ricollocazione, appunto, a noi sicuramente sfuggono. Avvocato Rotondi, poi la saluto. Sì, posso dire una cosa? Io trovo straordinario che uno possa non lavorare per un anno e mezzo, specie con questi profili, perché è sicuro che per esempio non si è rivolto a una PL, un'agenzia per il lavoro, perché è in fuor di dubbio che una sostituzione di maternità, un'assenza per malattia, che gli consentiva non certo di avere il lavoro della sua vita, ma di mantenere il curriculum, ragione, il curriculum presente. Questa è una forma, devo dire, di resistenza mentale. Resistenza mentale, vale. Chiamiamola così un po'. Grazie avvocato Rotondi, grazie a Cetti Galante per essere stati con noi, puntata vivace, ricca di spunti, adesso me li segno tutti e poi su ognuno ci faremo una puntata specifica. Nicoletta, che ne dici? Volentieri, volentieri. Tanti ci hanno scritto e vi giro tutti gli ascoltatori poi sicuramente. Ai ai ai. Allora, intanto io saluto il dottor Attilio Speciani. Eccolo. Che è in linea con noi. Buongiorno. Eccomi. Dottor Speciani, allergologo e immunologo, l'ho anticipato. Dottor Speciani, insomma, sicuramente perdere il lavoro è un momento drammatico della vita, è stata paragonata ad un lutto, il mondo ci crolla addosso, cambiano tutte le prospettive, ma noi dobbiamo restare in piedi. È difficilissimo, lo immagino, arrivano tanti messaggi di WhatsApp che ci invitano a sottolineare questo aspetto, a non darlo troppo per scontato o a raccontarlo come facile. Abbiamo avuto l'intervento di una nostra ascoltatrice che proprio di fronte a questo momento così drammatico della sua vita non è riuscita ad articolare, a comporre una frase. Gli amici, la famiglia, i colleghi devono sostenerci, possono farlo perché l'affetto è nutrimento, ma noi dobbiamo rimanere in piedi. Allora, dottor Speciani, ho anticipato agli amici che ci stanno ascoltando che avremo parlato di stile di vita. Sembra una cosa assolutamente lontana. Quando uno ha un problema così grande, l'ultima cosa a cui vai a pensare è che devi comunque mantenere un certo stile di vita, perché è il tuo carburante, devi giocarti anche questa carta. Dottor Speciani, lei ha ricerche, numeri e autorevolezza per spiegare questo concetto che sembra quasi una parolaccia, no? Perché quando una persona è veramente preoccupata, parlare di dieta sembra, no, parlare di qualche cosa di banale. Invece anche questa potrebbe essere una strada. Dottor Speciani. Non solo, io vorrei proprio rompere lo schema. Intanto sono stato ad ascoltare gran parte degli interventi precedenti e mi hanno incuriosito tantissimo. Però proprio rompo lo schema, ad esempio c'è una pubblicazione sul Journal of Applied Psychology recente che dice che nei colloqui di lavoro il viso con cui ti presenti è basilare, fondamentale, al di là delle tue competenze per poter ottenere il lavoro che stai cercando. E questo significa fondamentalmente che il colloquio di lavoro con una persona che si sta piangendo addosso quindi che sta vivendo il lutto solo nella sua parte di lutto e non nella parte di evoluzione successiva è un problema. Se io devo fare un'assunzione di una persona per qualunque tipo di tipologia di lavoro e mi incontro una persona che ha gli occhi gonfi, che palesemente sì. sta mangiando male, che sa di fumo, eccetera, ho dei dubbi fondamentalmente sul fatto che sia capace anche di gestire dei momenti di stress nella mia azienda. Questo è un tema fondamentale. E devo dire che ci sono degli elementi legati allo stile di vita che sono sia per quanto riguarda il fatto di avere, io dico, una faccia più piacevole e una faccia che trasmetta salute e sorriso. Uno dei miei motti, abbiamo assunto moltissime persone, è circondati di gente che sorride. Quindi bisogna essere in grado di sorridere di fronte ad un colloquio di lavoro e per portare le proprie esigenze. Avere però una e se non ci mentale. Viene il sorriso, dobbiamo imparare a sorridere e non troppo in modo finto. Ecco, perché esatto, dobbiamo, anche questo aiuta, perché ci sono delle ricerche bellissime sul potere del sorriso. E qui andrei anche a dare due spunti, proprio ma velocissimi. Uno, ad esempio, il timing del colloquio di lavoro. Persone che dicono, ho visto in giro, tra l'altro girando su internet, delle segnalazioni terrificanti, dice mangia una fetta biscottata con la marmellata prima di andare a parlare. Queste sono le tipiche situazioni che nel giro di 20 minuti dopo ti mettono in ipoglicemia, vai in crisi mistica e non sei più capace di funzionare. Noi abbiamo discusso nella vostra trasmissione proprio di come, ad esempio, una prima colazione ricca fatta bene con bilanciando carboidrati e proteine insieme può mantenere una capacità di tenere la glicemia adeguata anche per 5-6 ore. Sì, quindi siamo degli atleti, in quel momento lì soprattutto dobbiamo giocarla al massimo. Mi ero preso uno spunto e ho detto il timing per un colloquio di lavoro è come un allenamento. Dottor Speciani, le ho rubato io. Ormai in tutt'uno. Ormai siamo specianesche. Dai, e poi due cose semplicissime che posso segnalare, no? Per cui ci sono alcuni alimenti, tra l'altro adesso andiamo in una stagione positiva, in cui le albicocche, che sono ricche di potassio, tengono sulla pressione, hanno degli ottimi antiossidanti. Poi il cacao, attenti, perché chi mangia il cioccolato per la tensione prima di andare a fare un colloquio di lavoro rischia di arrivare in ipoglicemia. Se invece è un noir vero, buono, magari con dentro due mandorle o due noci mischiate, quindi un cioccolato nero con poco zucchero e senza latticini aggiunti, in realtà ha un'azione di stimolo anche al buon umore, alla lucidità mentale, alla capacità di capire cosa ti sta dicendo l'interlocutore. Quindi limiterei assolutamente gli zuccheri, perché l'ipoglicemia è la cosa che poi ti frega completamente, perché sei lì, non sei capace di dire niente, l'attacco di panico che interviene, imparare a respirare, che è una cosa fondamentale, bisogna imparare nella vita di tutti i giorni, perché altrimenti vai in alcalosi respiratorie e poi ti senti svenire e quindi non sei capace di rispondere alle domande o di interloquire con le persone. Per cui vedi che ci sono piccoli spunti, l'uso della colazione, il timing del mangiare, gli antiossidanti, che sono l'elemento fondamentale per far sì che anche una situazione drammatica come quella di un lutto, di una perdita di lavoro, possa diventare un elemento di speranza e di acquisizione, ma soprattutto di proposizione di se stessi con vivezza, con vividità, con gioia, perché io credo che oggi ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, dai. Allora mettiamo il carburante giusto, perché anche il carburante è importante. Dottor Speciani, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, come sempre. Noi ci sentiremo presto. Adesso, Deborah, sono tempi dei mercati. Quasi le 11:30. Abbiamo ancora in studio i nostri esperti. Sì, perché stavo mostrando loro tutte le sintesi delle telefonate degli ascoltatori, appunto, che sono arrivate nella prima parte del programma, con testimonianze molto diverse di persone estremamente scoraggiate. Naturalmente stamattina esce la patologia. Chi ha avuto situazioni particolarmente positive rispetto ad una necessità di reinventarsi, se disoccupata a 50 anni non ne sono molto arrivate. C'è ovviamente chi cade nel solito tranello di banalizzare la questione dicendo solamente se hai dei buoni parenti e dei buoni amici ti ricollochi. Beh, appunto, il networking, lo abbiamo detto prima. Oggi possono, si chiama in maniera un po' più dignitosa, se vogliamo. Possono però, insomma, aiutare anche questi. Cioè, alla fine tutto aiuta. Dire, no? Esatto. Abbiamo... Io penso che il tema della raccomandazione sarà ancora valido, ma è un po' tramontato. Chiamiamoli in maniera diversa, avvantaggiamoci della rete di relazioni che abbiamo e anzi, se possibile, se siamo degli orsi e non ne abbiamo, magari costruiamole, che è utile. Detto questo, io ho una relazione molto stretta con la borsa e adesso allora, vedo grazie, se questa amicizia sì. E dopo la borsa cosa facciamo? Torniamo a parlare di funghi. Ieri abbiamo parlato, vero, di un fungo che crea grande preoccupazione e sono arrivate tante telefonate, tante mail, perché noi siamo tornare, ricoperti da funghi. Che cosa faranno? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. I funghi sono presenti abbondantemente nell'ambiente, ma sono anche presenti sempre nel nostro corpo. Quindi noi la candida di cui stiamo parlando la possiamo trovare abitualmente nel cavolare, nell'intestino, sulla pelle, a livello delle vie genitali. Quindi fanno parte della nostra flora abituale e che ogni tanto diventano cattive. Insomma, siamo tutto un fungo, Deborah, fungona anche tu. Allora, che tipo sono? Mamma mia, mio zio Giovanni diceva che raccoglieva l'arminerella mennea, se lo inventavano, non so cosa fosse. Allora, funghi, proprio ieri abbiamo ascoltato insieme al professor Massimo Andreoni, che è ordinario di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, commentavamo l'allarme sulla candida auris, un superfungo che sta mettendo a dura prova i ricercatori, sta preoccupando i medici perché è resistente ai farmaci, un po' quello che è capitato ai batteri. E poi, parlando di funghi, dalla candida auris siamo arrivati alla candida comune e poi a tutti gli altri funghi che vivono sulla nostra pelle, e lì facendo riferimento ai funghi che possono in qualche modo così insediarsi anche e dare problemi alle nostre unghie, l'onicomicosi, ai prodotti che utilizziamo, la vostra preoccupazione è, devo dire che è stata tanta. Ci sono arrivati tanti messaggi, allora abbiamo detto bene, tutti i funghi, allora bisogna lavarsi di più, bisogna lavarsi di meno, ne avevamo già parlato la scorsa settimana e abbiamo chiesto al nostro ospite, che ci piace un sacco, troviamo tutti i modi per averlo con noi, il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, gruppo ospedaliero San Donato, gli abbiamo chiesto di tornare a trovarci e lui ci ha detto sì. Buongiorno professor Di Pietro. Buongiorno. Ma è un immenso piacere anche non si per è fatto me, pregare tanto, ecco. No, allora veniamo, possiamo dire quindi che vengo io con i miei funghi, noi con i nostri funghi. Tra l'altro, sì, ieri pure le uova potevamo fare una ricetta, sì, vero? Sì, sì. Beh, ma i funghi, tutto sommato, nella stragrande maggioranza dei casi che ci sono sulla nostra pelle, sono anche amici, perché quando crescono in piccole quantità riescono a tenere sotto controllo altri funghi o altri microrganismi più cattivi, ecco, quindi la gran parte dei funghi che ci sono sulla nostra pelle convivono con noi e ci aiutano. Non bisogna fare di ogni erba, di ogni fungo un fascio. No, solo che certe condizioni aumentano e diventano cattivi. Tenuto conto che ho letto che in una pubblicazione che ad esempio a proposito di varietà e di tipi ne abbiamo solamente 80 solo nei nostri piedi. Professor Di Pietro, sì, è vero, 80, sì, 80 tipologie diverse, certo, ma... e altrettanti in sparsi di qua e di là, e noi oggi andiamo a cercare di funghi dalla testa ai piedi. Ma professor Di Pietro, allora, ieri il professor Andreoni diceva, e quindi è corretto lavarsi, no? Lavarsi frequentemente, insomma essere puliti, sì, e ai funghi piace la pulizia? E proliferano invece, vanno a nozze nella sporcizia, sì, diciamo, vanno, un po' nella... vanno, diciamo che vanno a nozze e nutrendosi di cellule morte anche. Se noi non eliminiamo dalla nostra pelle tutte le cellule che man mano continuamente muoiono e rimangono attaccate sulla pelle, queste diventano un ottimo fertilizzante, ecco, un ottimo terreno per far crescere questi funghi a dismisura. Per cui lavandosi in maniera corretta, eliminando queste cellule morte dalla nostra pelle, si toglie il loro nutrimento principale, di conseguenza allora l'utilità di mantenere la pelle pulita. Allora 800 24 00 24 se volete intervenire in questo viaggio dalla testa ai piedi per localizzare alcune situazioni che potrebbero essere causate da funghi, e quindi occhio al colore, all'aspetto, a eventuali pruritini. Professor Di Pietro, andiamo a collocarci, iniziamo dalla testa. Anche lì vive un fungo, è la malassezia, responsabile della forfora. Sì, certo, la malassezia è tra i... Ti ha stupito, vero, Debora? Sono sbalordita, con una padronanza mi ha tirato fuori la malassezia. La malassezia, si chiama malassezia furfur. Furfur. Già furfur, che ci dà, ecco, un'indicazione. Fa parte del suo nome, già ci indica un po' anche quello che alla fine che può fare. Furfur perché la presenza di questo fungo porta ad una desquamazione che può essere lievissima quando appare sul corpo, sulla pelle, o più abbondante quando invece è il cuoio capelluto. E la malassezia furfur è tra l'altro tra i principali responsabili anche della dermatite seborroica, che è molto frequente e che è caratterizzata da questa forfora abbondante, estremamente fastidiosa. Ma la malassezia furfur è anche uno dei protagonisti nei prossimi mesi, tra le cose che ci capiteranno sulla nostra pelle, è che la pityriasi versicolor, cioè il classico fungo di mare, quello che una volta veniva chiamato il fungo di mare. Sì, come si presenta, professor Di Pietro? Si presenta con delle chiazze più chiare, biancastre, che appaiono soprattutto dopo l'abbronzatura. Questo succede perché il fungo, crescendo a dismisura sulla nostra pelle, crea delle colonie, quindi delle zone ricoperte da questo fungo, ma il fungo di per sé è invisibile, è molto piccolo. Ma quando la pelle viene colpita dai raggi solari, quindi si abbronza, dove c'è il fungo la abbronzatura è molto sottile, quindi questo fungo impedisce all'abbronzatura di andare in profondità. Quindi ci sono delle zone dove l'abbronzatura è così sottile, uno strato così sottile, che dopo pochi giorni dall'esposizione al sole, in quelle zone l'abbronzatura va via subito, mentre nelle zone dove il fungo non c'era, l'abbronzatura, essendo avvenuta più in profondità, rimane più a lungo. Questa è la ragione per cui dopo l'estate si creano delle chiazze bianche in mezzo alla pelle, che invece continua a essere un po' più scura. Ecco, queste macchie bianche sono zone dove c'è il fungo, che è la malassezia. Allora, io, dato che Deborah è un po' abbronzata, allora mi stava subito facendo vedere il suo décolleté. Stiamo in diretta Facebook, esatto, e quindi non vorrei. No, esagerato, però. Funghi non ne ho. Non ne ha. I funghi, professor Di Pietro, no, non ne abbiamo. No, io mi faccio venire fuori solo i nei, quelli, le felidi. Ma sui nei poi parleremo di una bellissima iniziativa. Certo, però non bisogna temere molto su questo fungo. Nel passato, negli anni scorsi, si diceva che veniva trasmesso attraverso gli asciugamani sporchi, ecco, oppure la sdraio che si era infettata perché si era seduta una persona con i funghi. In realtà questi funghi, la malassezia, cresce sulla pelle di tutti noi in determinate condizioni ambientali, quindi a secondo del tipo di sebo, di sudore e quindi del tipo di pelle, questo fungo può crescere a dismisura, cioè si trova così bene che cresce enormemente. Quindi non è l'asciugamano, arriveremo tra poco in piscina, ma volevo chiederle una cosa, professor Di Pietro. Se qualcuno di noi adesso sta pensando all'anno scorso, alla fine dell'estate, Rabella dice è vero, io avevo questa abbronzatura in cui sembravo un po' a chiazze, c'erano dei puntini bianchi, sarà allora magari questo funghetto, che cosa devo fare? Bisogna curarlo, e quindi bisogna per un paio di settimane mettere ogni sera una crema antimicotica, quindi una crema che uccide, distrugge il fungo, passandola su tutto il tronco, non solamente dove c'è la macchietta bianca, ma su tutto il tronco, perché la macchietta bianca è il punto dove si vede di più questo fungo, ma può essere presente anche in zone senza manifestarsi in maniera evidente. Quindi queste creme antimicotiche andrebbero messe tutte le sere per 10, meglio 15 giorni, e nei casi in cui il fungo è molto esteso può essere necessario prendere per bocca anche un antimicotico, su consiglio naturalmente del proprio dermatologo. Il fungo viene eliminato, però attenzione, perché se la pelle continua a mantenere le sue caratteristiche di acidità, quindi è in un periodo della vita in cui il sudore, il sebo hanno certe caratteristiche, quella è una pelle fertile, un terreno fertile che fa crescere e ricrescere di nuovo il fungo, quindi si hanno le recidive. È la ragione per cui per 2-3 anni questo fungo tende a ripresentarsi. Allora bisogna, prima di andare al mare, quindi in genere nel mese di giugno, prima dell'estate, prima di esporsi al sole con tutto l'organismo, ripulire un po' la pelle da quelle tracce, quantità di fungo che magari durante l'inverno sono cresciute sulla nostra pelle senza manifestarsi, senza vedersi. Come dicevamo prima, non è il fungo che è bianco, è il guaio che il fungo ha causato, esatto, faccio delle certo. macchie bianche. Allora, prima di andare al mare, per una decina di giorni bisogna ripulire un po' tutta la pelle da questo fungo, in modo che, esponendosi poi al sole, ci sarà un'abbronzatura uniforme, come piace a noi. Sì, e in autunno non si vedranno le macchie. Claudio dalla diretta Facebook ci scrive che i funghi gli piacciono in padella con una bella frittata. E con le uova di ieri, però, te lo dicevo prima, ieri sono stati tutto, due temi più gettonati. Abbiamo tutto l'occorrente qui, anche il nostro numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24, messaggi e WhatsApp al 349 238 6666. Professor Di Pietro, devo farla tornare un attimo su al piano alto. Parliamo di nuovo di forfora, perché arrivano dei messaggi via WhatsApp che mi dicono: Nicoletta, però non ci hai detto come si toglie la forfora. Si può togliere la forfora o si cura solamente il fungo che la provoca? Dunque, bisogna capire se questa forfora se è causata da un fungo. Allora questa forfora si elimina abbastanza facilmente con dei principi attivi, che tra l'altro anche non farmaci spesso sono più che sufficienti. Ricordiamo la luchina, ne avevamo già parlato qualche volta fa a proposito della dermatite seborroica, che ricordiamolo è legata anche alla presenza di questi funghi. Quindi shampoo che contengono aluchina, oppure delle lozioni o delle creme quando bisogna intervenire in maniera più energica, possono essere utili già per debellare la forfora nel 90% dei casi. Ma a volte la forfora può essere anche la conseguenza di un'intolleranza a certi shampoo o a certe lozioni o certe lacche, cioè può essere anche su base allergica, quindi c'è una reazione della cute del cuoio capelluto di tipo allergico che causa la forfora. Basta cambiare tipo di shampoo, spesso si risolve. Quindi fate almeno una prova, restate, non andate subito a lavarvi i capelli, perché ci sono le informazioni sul traffico. E poi di nuovo insieme al professor Di Pietro continuiamo il nostro viaggio e arriviamo anche ai piedi, e con attenzioni e raccomandazioni per chi in questo periodo inizia a frequentare piscine. Quali prodotti vanno utilizzati, quali attenzioni e precauzioni bisogna avere? Naturalmente spazio alle vostre domande. Parleremo anche del piede d'atleta, che non è un gesto atletico ma qualche cosa che ha molto a che fare con il tema di oggi. A tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Cuore e Denari. Dalla pelle al cuore, adesso sto davanti a te. È tornato a trovarci il professor Antonino Di Pietro, un dermatologo che ci sta particolarmente a cuore, cui abbiamo pensato di dedicare a pelle e a cuore questa canzone. Che la pelle canzone ci dice che ci piace. Professor Di Pietro, sì, ecco. Continuiamo a parlare di funghi. Abbiamo parlato di quelle macchiette bianche che notiamo quando, dopo l'esposizione solare, quando siamo abbronzati, notiamo che la nostra abbronzatura, tra poco speriamo di potercene regalare un po', diventa un po' a chiazze. Questo non è il fungo, ma come lei ci ha spiegato, sono i risultati, gli effetti, il danno che il fungo provoca. E ancora, le domande dei nostri ascoltatori ci aiutano ad andare meglio nel tema e a dare delle indicazioni concrete. Più di un ascoltatore mi chiede se come riconoscere le macchiette bianche da quella che possono essere invece delle lesioni della psoriasi o della vitiligine. Insomma, quando è fungo, quando ci sono invece dei segni che possono rimandare anche a noi che non siamo dei dermatologi ad una malattia della pelle più severa? Certo, la vitiligine, diciamo che le macchie bianche potrebbero essere o una vitiligine o invece un fungo, sono soprattutto queste, no, le principali malattie di cui bisogna cercare di capire quale. Per capirlo è semplicissimo, perché la vitiligine è causata da una mancanza di melanina. La pelle non produce la melanina e quando ci si espone al sole si formano le macchie bianche. Quindi se noi man mano che ci abbronziamo fin dai primi giorni la pelle in certe zone rimane bianca, lì vuol dire che non c'è melanina e quindi quella è la vitiligine. Non è il fungo. Non è il fungo. Invece quando c'è il fungo inizialmente la pelle si abbronza tutta, noi non ce ne accorgiamo, ma dove c'è il fungo l'abbronzatura è molto molto sottile. Pensate a una risma di fogli di carta assorbente, dove c'è una goccia di inchiostro che è l'abbronzatura che prende tutta questa risma di fogli e invece in alcuni punti c'è una goccia dove non arriva fino in profondità, rimane in superficie. Ecco, allora, e quindi sono meno questi fogli interessati. Allora quando c'è il fungo l'abbronzatura non riesce ad andare in profondità. Poi si torna a casa, ci si lava, si fanno le docce, ci si strofina con gli asciugamani, si perdono i primi strati di pelle. Ci si tampona, come ci ha insegnato lei, eccola lì. Man mano che si perde l'abbronzatura, nei punti dove l'abbronzatura era molto sottile, chiaramente certo, viene via prima, e allora si formano delle macchie bianche. Allora, quando le macchie bianche compaiono dopo l'abbronzatura, a settembre, insomma, quando si torna a casa, in quel caso allora il sospetto del fungo è quasi lampante. Per quanto invece riguarda la psoriasi, malattia di cui ci siamo occupati spesso, di cui è diversa perché ci sono anche delle croste. Ecco, nel caso di psoriasi la pelle è molto spessa e allora succede che squamandosi la pelle perde anche l'abbronzatura e anche in quel caso di psoriasi le macchie bianche compaiono dopo l'estate. Nereo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per il programma. Grazie. E buongiorno al professore. Niente, io volevo fare una domanda al professore. Io ho un problema sulla parte superiore delle mani che mi compare specialmente nella stagione estiva, in cui si vedono delle piccole macchioline medio scuro, piccoli di rigonfiamenti e che causano prurito. Diciamo che a vedere a livello naturale sembrano delle piccole, fra virgolette, verruche, però non sono verruche, sono queste macchioline che poi si gonfiano e creano un problema, un prurito alle mani. Solo in estate, Nereo? Solo questa qua è una fatto che mi succede durante il periodo estivo, sì. Da adesso in poi. Ecco, diciamo, professor Di Pietro, faremo una puntata tutta sulle macchie, a colori, piane, ecco, ruvide, lisce, sì, chi più ne ha più ne metta. Sì. Un'indicazione per Nereo. L'indicazione è questa, allora potrebbe essere o sono delle cheratosi che poi col caldo e i vasi capillari più fragili gonfiandosi perché arriva più sangue sente fastidio perché c'è una compressione di piccole terminazioni nervose e quindi allora delle banali cheratosi soprattutto se la pelle è un po' più spessa e un po' più ruvida, sì. Oppure potrebbe essere una disidrosi, che è un'altra forma che nei cambi di stagione si presenta, ma in quel caso sono delle microvescicole. Ecco, io credo che nel caso del paziente sia la prima ipotesi, quella più reale. Niente di grave, però. Allora, professor Di Pietro, sì. Arriviamo. Si va verso il basso, eh? Bravo, arriviamo. No, prima. Ecco, arriviamo al piede. Sì. A grande richiesta, consigli per l'onicomicose e piede d'atleta. Sì. In proprio un minuto, dedichiamo un minuto sì, per a ciascuno sì, di questi due problemi sì, che sono molto, molto diffusi. Certo, beh, ricordiamo che i funghi amano molto l'umidità. e un po' di calore. Quindi dove ci sono delle pieghe cutanee e dove aumenta il calore sulla pelle, questi funghi vanno a nozze e cominciano a riprodursi in grande quantità. Portare delle scarpe che non fanno respirare il piede, le vecchie scarpe da tennis, no? Con la gomma e sotto, dove, da tennis, ecco, dove il piede cuoceva addirittura dentro perché non respirava, era l'ideale per far crescere tipo serra, quindi si creava un effetto serra all'interno di queste scarpe. Il famoso effetto, effetto serra. È una cosa carina per poi. E il, quindi caldo, umido, e i funghi tra le dita dei piedi crescevano a dismisura e man mano che crescevano mangiucchiavano o mangiucchiano tutta la pelle, quindi la pelle si arrossa, si screpola, si spacca addirittura. E questo fu chiamato anni fa piede d'atleta, perché all'epoca erano le scarpette da tennis che si utilizzavano. Le nuove scarpe, per fortuna, con cui si fa attività sportiva non sono così, sono traspiranti, quindi sono altri materiali, per fortuna. Però è rimasto il termine piede d'atleta ogni volta che il piede non respira bene, suda, d'estate poi il caldo è ancora maggiore, e quindi è un classico vedere questi spacchi molto dolorosi a volte, perché si creano delle ragadi, quindi delle fissurazioni, arrivano anche a sanguinare nei casi più gravi, e quindi estremamente fastidioso. Cosa possiamo fare? Una cosa pratica, acqua e bicarbonato come prima cosa, quindi sciogliere in una bacinella, nel bidet, nella vasca, insomma, ecco, sciogliere per circa 10 litri d'acqua un cucchiaio raso di bicarbonato. Acqua e bicarbonato è ottimo perché frena ed elimina gran parte questo fungo, e mettere una crema antimicotica, antimicotica contro i funghi, per un mese, almeno per un mese. Ecco, la cura è lunga, vero professore? Certo. Certo, per evitare le recidive, perché possono restare dei funghi sulla pelle appena stiamo un po' meglio, e se non andiamo avanti con la cura, questi poi ricrescono un'altra volta. È come un'erbaccia che deve essere asportata e poi ci vuole il diserbante. Professor Di Pietro, torneremo a parlare, puntata dedicata a macchie, poi a lei c'è una bella iniziativa che ci racconterà tra qualche giorno il professor Di Pietro. Certo, adesso, con piacere. Adesso teniamo ancora così in sospeso i nostri ascoltatori, intanto la ringraziamo, anche i nostri funghi la ringraziano, le auguriamo una buona giornata, grazie. Anche a voi, una bellissima giornata. E prima di chiudere torniamo a parlare di morbillo, l'attualità lo impone, ieri infatti sono usciti i dati del Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità che hanno sottolineato come sono stati 385 ad aprile 2017 i casi di morbillo registrati in Italia. So che questo dato magari non dice niente, ma se aggiungo che sono stati 5 volte quelle verificatesi nello stesso mese del 2016, allora riusciamo a leggerlo nella sua gravità. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie professore per essere con noi. Grazie a voi. Più contagioso dell'influenza, il morbillo, era previsto, sta scatenando una sorta di epidemia. Il mondo ci guarda, professor Ricciardi, interdetto e con allarme. Questo ho ripreso da un suo intervento e a commento dei dati che sono usciti ieri. Professore, un po' ve lo aspettavate perché i casi aumentassero, ma... No, ce l'aspettavamo, ma non in questa misura, perché peraltro se lei pensa che questi sono solo i casi notificati, ma la sottonotifica, cioè il numero di casi che non vengono in qualche modo segnalati alle autorità sanitarie, nel morbillo si stima che sono 1 a 6, quindi come alcuni dicono potrebbero essere molti di più, potrebbero arrivare fino a 6.000. Se lei pensa che ci sono paesi in cui i casi sono zero, e sono la stragrande maggioranza dei paesi occidentali e soprattutto tutti quelli della regione americana, è chiaro che il mondo ci guarda con sconcerto, perché abbiamo dei dati che sono paragonabili a quelli dei peggiori paesi del mondo. In questo momento siamo secondi soltanto alla Romania, che ha più di 4.000 casi e ahimè ha già avuto 17 morti da morbillo. Quindi siamo estremamente preoccupati, perché ce l'aspettavamo, l'abbiamo detto ormai, lei se lo ricorda, da anni, quando c'è un automatismo, quando la copertura vaccinale scende sotto, diciamo, determinate soglie. In realtà nel caso del morbillo noi in Italia non l'abbiamo mai raggiunta questa soglia del 95%, però sono scese ulteriormente, allora noi stiamo veramente in una situazione in cui ci sono decine di migliaia di bambini, ma adesso anche di adulti, che non sono vaccinati, non sono coperti e quindi si stanno Professore, andando. Abbiamo un minuto, un secondo per lanciare un messaggio del, soprattutto l'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, in una parola. Vaccinate soprattutto alle mamme che vaccinino i loro bambini nel momento in cui, perché purtroppo in questo momento stiamo vedendo anche bambini piccolissimi, cioè al di sotto dell'anno. La vaccinazione contro il morbillo viene fatta a 15 mesi, quindi questi bambini piccoli in ospedale ci vanno perché ci sono troppi bambini più grandi che non sono stati vaccinati. Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi. Noi lunedì da Tutto Food. Da per due giorni, buona giornata a tutti.